Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, torniamo a occuparci di politica dei tempi questa sera, di come cioè modelli organizzativi diversi, soprattutto nel campo dell'amministrazione pubblica, possano farci risparmiare spostamenti, fastidi e soprattutto tempo, forse il bene più prezioso e insostituibile di cui disponiamo. Per farlo abbiamo deciso di segnalarvi insomma tutte le iniziative più interessanti che vanno in questa direzione. Ebbene, questa volta Chiara Albicocco ci parla dello spazio città di Vimercate, una cittadina in provincia di Monza e Brianza, che oggi, come dire, festeggia il decennale di un'iniziativa davvero visionaria, soprattutto a suo tempo, nata dall'iniziativa di Ciro Maddaluno, che oggi è segretario generale del comune di Vimercate. Ascoltiamo. Io sono stato chiamato a Vimercate dall'allora sindaco perché avevo un'esperienza in tema di organizzazione degli enti, avevo pubblicato qualcosa sulla qualità norma ISO 9000 e quindi mi venne chiesto tra le altre cose di cambiare il rapporto cittadini-amministrazione comunale. E lei l'ha preso alla lettera? Io l'ho preso alla lettera, sì, avevo fatto qualche altra esperienza nel recente passato e ho proposto questo progetto che per la verità ho potuto realizzare perché a Vimercate ho trovato un gruppo di dirigenti e di collaboratori di primo ordine. Ecco, io prima ho detto il concetto di sportello comunale è superato. Che cosa significa? Che cosa ha fatto? Che cosa ha portato lei a Vimercate? Ma a Vimercate noi abbiamo superato, come diceva lei, il concetto di sportello, nel senso che il cittadino entra a spazio città e può farlo ininterrottamente dalle 8 di mattina alle 19 di sera senza interruzione, il giovedì fino alle 21. Orario continuato. Trova di tavoli ai quali sedersi e chiedere qualsiasi tipo di informazione o di servizio o di prodotto, senza dover selezionare l'operatore. Infatti non c'è segnaletica all'interno del spazio città, si entra e si individua l'operatore libero e questo capita praticamente sempre, perché abbiamo stimato che le code a spazio città non esistono più, neanche di 2-3 minuti, insomma. Ecco, spazio città è come se fosse un negozio, cioè è proprio, non dobbiamo più venire in comune, ma troviamo lo spazio comunale in piazza praticamente. Sì, è così. È stato immaginato come un po' il foro cittadino, è sulla strada, all'esterno del comune. I vani sono assolutamente visibili dall'esterno perché sono soltanto delle vetrate che rendono assolutamente, come dire, trasparente e attraversabile alla vista gli uffici all'interno. Ma Maddaluno, i servizi erogati sono gli stessi, diceva, di quelli che appunto eroga un normale municipio, però la gente è specializzata in tutto, gli addetti comunali sono specializzati in tutto, cioè non c'è più l'ufficio anagrafe, l'ufficio geometra, ma tutti possono fare tutto e a tutte le ore. È così. Tutto il front office, tutto lo sportello, quello che era l'attività di contatto col cittadino, dai servizi demografici ai tributi, alle prenotazioni, ai vari servizi comunali e fino alla prenotazione per ricevere appuntamento con i nostri tecnici per l'urbanistica e i lavori pubblici, si fa tutto a spazio città e quindi, dicevo, senza limitazioni temporali. Beh, un po' il punto di forza del progetto, oltre ad essere appunto quello dell'immediatezza, è anche, credo, la preparazione appunto dei vostri addetti comunali, insomma, i vostri dipendenti, perché si chiede un impegno non indifferente e insomma il rapporto col pubblico molto diretto. Sì, per la verità questo è stato uno dei punti di forza del nostro intervento di riorganizzazione. Noi negli ultimi 6 anni abbiamo ridotto il personale da 210 unità a 174-175 di oggi e contiamo ancora di ridurlo ulteriormente perché abbiamo ottimizzato i processi di lavoro. Per cui la formazione è un principio che noi cerchiamo di attuare e stimolare per tutta la nostra organizzazione. Le persone che lavorano a Spazio Città hanno fatto un piano di formazione che abbiamo autoprodotto e i formatori sono stati i dirigenti e i funzionari perché tutti condividessero lo stesso livello di conoscenza. Questo ha fatto sì che la motivazione è molto cresciuta perché i collaboratori e i dirigenti sono diventati formatori e le persone che venivano da esperienze le più disparate hanno accettato di sfidarsi su Spazio Città e oggi sono particolarmente motivate. Faccio un solo esempio: tra le persone che si sono candidate, perché noi abbiamo chiesto alle persone di candidarsi a un progetto così performante, era una nostra collaboratrice della carriera esecutiva in un asilo nido e a circa 45 anni questa persona ha deciso di sfidarsi e proporsi. Sì, naturalmente noi l'abbiamo accettata, ha fatto il piano di formazione dai servizi demografici ai tributi, oggi è una delle persone veramente più solari e più attraenti per Spazio Città, la nostra Fiorella, mi piace citarla, e questo è un po' il principio che abbiamo attuato per tutti i nostri collaboratori. Ecco, poi sono passati insomma 10 anni, quest'anno è il decennale, un bilancio mi sembra positivo, insomma ha avuto successo, però non dormite sugli allori, avete qualcos'altro in mente? Sì, ospitiamo anche sportelli di altre realtà, sportelli che sono a sostegno degli stranieri, poi abbiamo lo sportello fianco a fianco che è un punto di riferimento per gli amministratori di sostegno, poi abbiamo spazio d'incontro per l'orientamento scolastico ai disabili e poi abbiamo Informa Disabili, alcune volte le settimane, ciascuno di questi sportelli assistono persone che hanno particolare bisogno. Quest'anno noi stiamo realizzando un progetto per la dematerializzazione degli atti sia all'interno del comune ma anche per quanto riguarda Spazio Città, per cui basta carta? L'abbiamo già ridotta drasticamente, ecco. Ma noi pensiamo proprio di ridurle, e insieme alla carta di ridurre i tempi di attraversamento per esempio delle delibere, delle determinazioni dei dirigenti. Tutto questo deve arrivare a Spazio Città anche per quanto riguarda i servizi offerti ai cittadini. Ecco, e attraverso il nuovo sito web noi vogliamo offrire più servizi ai cittadini che magari vogliono chiederli direttamente da casa. I nostri collaboratori sono in grado di misurare giorno per giorno, davvero, la soddisfazione dei cittadini, i quali non raramente a Pasqua, a Natale portano la caramella o portano il fiore alle nostre collaboratrici. Veramente è disarmante scoprire come è facile motivare le persone per sciogliere tutto il carico di energia che loro portano con sé. Forse a me in questo ha agevolato il fatto che io sono nato in un comune ormai 37 anni fa come dattilografo. Io facevo il dattilografo nel comune di San Giorgio a Cremano a 20 anni. E quindi ha toccato con mano. Ho visto gli errori che gli altri facevano con me e mi sforzo di non ripeterli con gli altri. Beh, insomma, non è sempre al Nord Europa che bisogna guardare per trovare esempi di eccellenza. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.